tocca. Certo. Io ringrazio David. Magari riprendiamo se ci sarà da approfondire ulteriormente quegli elementi che vi interessano al termine, cioè, al termine della prima oretta. Hai dato sicuramente una con chiarezza, diciamo, i primi punti proprio, anche diciamo così, quello che come io stesso mi definisco l'uomo della strada, insomma, colui che deve essere introdotto a parlare di cose complicate, però poi con degli esempi pratici, insomma, si può rendere conto anche, diciamo, di come queste tecnologie stanno entrando nelle nostre vite e sono già entrate da parecchi anni. Passo la parola a Gabriz, come previsto dalla nostra scaletta. Ah, traditore. Volevo inserirmi un po' a metà fra un intervento e l'altro, però forse c'è una parte di quello che volevo dire che calza a pennello con questo momento, insomma, dopo l'introduzione di David. E volevo farlo, ripeto, brevemente, leggendo una frase di un libro e poi vi dirò che cos'è. Intanto Vision, mi confermi che sull'Ipari stanno sentendo? Ok, perfetto. E dunque, David appunto ha parlato di segnali deboli. Porto alla vostra attenzione un piccolo segnale debole fra i tantissimi che abbiamo visto recentemente nel nostro gruppo, nella chat di Skype. La frase è questa: il D-Day dell'intelligenza artificiale era previsto fra circa 200 anni. Quel giorno le matrici molecolari a base di carbonio avrebbero dovuto superare in termini di performance i più avanzati processori al silicio. Quell'appuntamento era indicato dalla sigla C maggiore di SI, il simbolo chimico del carbonio maggiore rispetto a quello del silicio. Due secoli, signori. Invece C maggiore di SI si è realizzato 7 anni fa nei laboratori di nanotecnologia elettronica molecolare della Dynacorp di Denver. Allora, la frase che ho appena letto in realtà è tratta da un romanzo che non c'entra assolutamente nulla con l'intelligenza artificiale e con il tema che noi trattiamo questa sera, ma è scritto da uno scrittore, un romanziere che ha servito nella Marina Militare americana. E nonostante il suo genere sia, ripeto, tutt'altro, ci dedica 2 capitoli a spiegare che cosa ha portato e cosa sta portando lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nei sistemi d'arma usati nella Marina Militare. Ovviamente molto è fantascientifico, ma molte informazioni invece si basano, soprattutto dal punto di vista realizzativo, si basano su fondamenti abbastanza veritieri, adesso senza entrare nei dettagli. Ecco, questo è un segnale debole, cioè un segnale che arriva da un altro elemento, un altro ambiente, che non sia quello prettamente dell'intelligenza artificiale, così come viene studiata da chi se ne occupa, che però ci indica quanto lo sviluppo di queste tecnologie possa avere effetti su tutto ciò che ci circonda. Addirittura qua si parla di sistemi d'arma. Ecco, questo poi per quanto mi riguarda porta a 2 considerazioni, però David e chi vuole intervenire, magari le terrei per un momento successivo, magari agganciandomi un po' a quello che dite. Cosa pensate? possiamo approfondire anche sicuramente ulteriormente. Sì, volevo adesso vi metto l'immagine nel video il romanzo è Attacco suicida, di Michael Di Mercurio. Adesso vi metto l'immagine.